let's just imitate the real until we find a better one. Remember the good lies when, remember the good lies when. Good lies when. Let's just imitate the real until we find a better one. Let's just imitate the real until we find. In uno scuorante quartiere, d'una città essa medesima, per tanti versi scuorante, al primo piano di una casa borghese vivevano due zitelle con la vecchia madre. E buon per il lettore che io non sento il dovere, che a quanto sembra altri sente imperioso, di descrivere minutamente simili luoghi. Ce ne sarebbe di che fare entrare le paturnie al meglio disposto. Con che costrutto non so vedere. Dunque cercherò di limitarmi qui ai cenni strettamente indispensabili, che sarà fin troppo. Questo era l'incipit delle Due Zitelle di Tommaso Landolfi. One, two, three, four, one, two. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next to you that night. Yeah, I'll be sleeping next to you that night. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next. Sleeping next to you that night. È la seconda parte del volume numero 3 di Eclettica, la voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, con voi tutti i giorni fra le 19 e le 20, ancora per un po', ancora per un po'. Alamo Racetrack con Black Cat John Brown d'Amsterdam sono questi, il gruppo e la canzone che vi siete ascoltati in apertura di questa seconda parte, per poi esserci spostati di poco in Germania, The No Twist con Good Lies e la loro novità del momento. Per poi passare a Brad Brick con One Too Many Mornings Anthem, l'inno di One Too Many Mornings, film indipendente statunitense. Stiamo per passare all'Italia, alle campagne fra l'Umbria e il Lazio, però prima di questo voglio fare un riferimento a quanto leggo in rete in questi giorni a proposito della chiusura di Rock FM, della prossima chiusura di Rock FM. Vedo che molti si spaventano di quello che sentono in onda, non tanto della notizia che ormai penso sia stata assimilata, ampiamente assimilata, ma dello spirito che sembra regnare da questa parte dei microfoni. Vedo che in molti sono spaventati da quella che sentono come rassegnazione. Io vi dico, non c'è rassegnazione, c'è sicuramente stata una botta molto forte che, pur sapendo che sarebbe arrivata, come quando siete in macchina e siete impossibilitati a scappare, vedete che un'altra macchina vi sta venendo contro. Vi preparate alla botta? Arriva, siete preparati, ma comunque arriva. Quindi questa botta è arrivata, deve essere assimilata, e poi bisogna ripartire con le nuove idee, con il nuovo spirito, con le nuove iniziative. Per farlo bisogna che tutti noi, e sto parlando di noi in questo momento da questa parte del microfono, dobbiamo muoverci come un solo uomo, e per farlo, come ai tempi della resistenza, quella con le 3S di qualche anno fa, bisogna che tutti voi dall'altra parte del microfono ci aiutiate in questo. E come ho letto su Gente Strana, che come sempre si dimostra vicinissima a tutti noi, come ho letto su Gente Strana, comunque non è finita finché non è finita. Vi dicevo, campagne umbre e laziali, infatti è da quelle parti che si ritrovano da qualche anno, 9 anni ormai, TV Lumière, formazione che gira attorno ai due fratelli Persichini, che arriva al suo secondo album, album che esce per Seahorse Recordings dal titolo Per Amor dell'Oceano, album in cui dichiarano influenze da ascolti come Nick Cave and the Bad Seeds, Angels of Light e anche alcuni gruppi scandinavi degli anni 70, oltre anche al nostro Fabrizio De André. TV Lumière, che ci ascoltiamo con Mondanità. Guardare the skyline, scraping the clouds. We drift and dry up with doubts. I never knew what the simple things were all about. The rush of reeling around. We shift and sprawl and spread out. And I've never clung to such simple things until now. Erano questi The Plastic Constellations da Minneapolis con Stay That Way, ed ora si chiude a tutti gli effetti il volume numero 3 con una formazione che fa di base a Parigi, anche se alcuni componenti sono statunitensi, però rimangono dall'altra parte dell'Atlantico, infatti si scambiano i rispettivi file via rete e poi li assemblano. Loro si chiamano The Limes e questa è Beyond Blue. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 22, volume numero 3, indice, Young Lords, Our Brother the Native, J. Retard, Say Hi, The Subjects, Man Without Pants, Alamo Race Track, The No Twist, Brad Brick, TV Lumiere, The Plastic Constellations, The Limes. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.